Fra i pochi filosofi che non detestavo del tutto c'era Schopenhauer. E avevo anche qualche motivo per apprezzarlo. In fin dei conti, la sua critica dei filosofi che l'hanno preceduto, pur non arrivando proprio alle estreme conseguenze, cioè che dei filosofi della filosofia bisognerebbe imparare a fare a meno, però non era da buttare via. Pessimista cosmico, non aveva amici o quasi, amava il suo cane. All'università avrebbe voluto puntare una pistola al petto di Fichte, che a suo parere raccontava chiacchiere insensate e si mostrava di una follia delirante. Non poteva sopportare neppure Hegel, che forse proprio per questo a lezione aveva l'aula piena, mentre la sua rimaneva desolatamente vuota. Il linguaggio di Schopenhauer poi è chiaro, ecco, l'argomentazione stringente, non verboso, mai nascosto dietro formule incomprensibili, pochi o nessun neologismo, niente trucchi da quattro soldi, insomma, come avrebbe detto Raymond Carver. Quella sua volontà su cui fonda l'intero suo sistema del mondo l'ho sempre vista come un residuo metafisico, ma in definitiva al personaggio, uno che dalla vita ha ottenuto poca gioia, al personaggio è sempre andata la mia stima affettuosa. Fino all'altro giorno. Leggo la riedizione di Schopenhauer e gli anni selvaggi della filosofia, una biografia di tal Rüdiger Safranski, e assisto impotente al dramma di un biografo che trascina con sé l'oggetto della propria indagine. Già non capisco perché quelli del primo Ottocento debbano essere anni selvaggi della filosofia. Ecco. Poi non capisco perché l'autore abbia tanti riguardi per la mamma di Schopenhauer, che non ha mai fatto un granché per non fargli constatare quotidianamente quanto non l'amasse e quanto lei desiderasse vivere brillantemente passando da salotto letterario in salotto letterario. Ecco, e infine non accetto né la superficialità di certi giudizi né il taglio tutto filosofico e ben poco scientifico con cui la biografia viene confezionata. Purtroppo, se non quanto Safranski, ma non tanto di meno, mi si offusca anche l'immagine del filosofo. Non solo per quell'analogia particolarmente infelice, presumibilmente suggerita dalle sue manie escursionistiche, fra la vetta della montagna una volta raggiunta e il sapere filosofico, con il mondo ai suoi piedi, con le sue forme ben visibili, ben individuabili, con la possibilità di una visione di ordine superiore, no? Ma anche per tutta una serie di altri particolari, diciamo meno immaginifici, ma rivelatori. Per esempio, quella pistola che per moralità filosofica avrebbe voluto puntare al petto di Fichte, non costituiva un artificio retorico, ma, ecco, ben tangibile e presto impugnabile se la teneva davvero accanto al letto, e a volte anche con una spada. Se ci si aggiunge che una volta, durante un viaggio a Verona, si mise in testa che qualcuno gli aveva fatto fumare tabacco avvelenato, ecco, la sua figura di pessimista cosmico comincia a perdere in cosmicità e ad acquistare parecchio in termini di banale mania di persecuzione. È una tristissima costante della vita di chi ritiene di averci una buona idea e ciò nonostante ritiene di non ottenere il successo che merita, di cominciare da un dato momento in avanti a vedere complotti e ombre minacciose dappertutto. Che lui poi ritenesse di aver avuto una buona idea, ahi noi, è testimoniato da una frase che incautamente si è lasciato sfuggire, dove lui dice che aveva fatto un dono tale all'umanità che difficilmente sarebbe stato dimenticato. Il suo odio per Fichte poi non è il risultato di un'analisi immediata, ma è il risultato di una sorta, diciamo così, di indigestione ritardata. Sulle prime, come tanti altri, ci era cascato. Forse anche grazie ad un marchingegno pubblicitario che, dando a Fichte una notorietà che altrimenti avrebbe fatto fatica ad ottenere, conferma altresì la consapevolezza che storia delle idee e marketing sono connesse più e meglio di quanto certi intellettuali siano disposti ad ammettere. Johann Gottlieb Fichte, che contribuì con il suo bel mattone all'erigenda mitologia della superiorità tedesca, scrisse un suo primo saggio che avrebbe potuto anche rimanere inedito se non avesse avuto la buona idea di presentarlo direttamente a Immanuel Kant. Questi, che diversamente da Schopenhauer, contò da vivo quanto da morto, e sempre comunque più di Schopenhauer, questi, dicevo, approvò lo scritto e lo propose lui stesso ad un furbo editore di Königsberg, la città dove per l'appunto Kant risiedeva. Il furbo editore gioca sull'equivoco. Cosa fa? Pubblica il saggio, ma lo pubblica anonimo, e promuove una recensione sulla gazzetta locale, ungendo l'intellettuale di turno, in cui se ne parli come se il saggio fosse di Kant medesimo. Tutti a comprarlo, quindi. Toccò poi a Kant stesso scrivere una smentita alla Gazzetta, non sono io, ma so chi è, sì, è un certo Fichte, l'autore, e a quel punto la fortuna di Fichte era fatta. Come la sfortuna di Schopenhauer, che a ben guardare, ecco, se l'andava anche a cercare. Nella biografia di Safranski, per fare un ultimo e definitivo esempio, ho trovato traccia di una teoria scientifica di Schopenhauer, oggi ahimè dimenticata, che lui ne pensasse, che non lascia proprio scampo. Questa teoria verte sul rapporto fra cervello, organi genitali e fasi lunari. Potremmo chiamarla la teoria spermolunatica delle idee, potremmo chiamarla. Allora, nelle notti di luna piena e di luna nuova potremmo usufruire di maggiori quantità di secrezioni seminali, nonché di più buone idee. Considerate, secondo i dettami più ingenui del materialismo settecentesco, come una sorta di secrezioni del cervello. A tanto può condurre la filosofia, d'accordo, ma soprattutto se, ecco, come nel caso di Schopenhauer, cui il successo non arrise mai in alcun campo delle umane relazioni, soprattutto se ai profondi studi filosofici si unisca una pertinace quanto sofferta continenza sessuale. Per i biografi filosofi comunque la speranza sia l'ultima a morire. Ho appena finito di compiangermi per aver letto questa biografia di Schopenhauer, per aver buttato tempo quattrini e quel che mi era caro del filosofo, che incontro un amico con l'impermeabile. Da sotto mi esibisce prontamente una copia del libro in questione e la sventola con orgoglio trionfante. Bellissima. Lo legga. Una biografia stupenda. Io me la sto leggendo addirittura per la seconda volta. Che sono su Gavi?